Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. A proposito dell'ennesimo scandalo che ha coinvolto il Presidente del Consiglio, pensate veramente che gli italiani non abbiano ancora capito il tentativo di un partito allo sbando, il PD, di cercare, dopo quella giudiziaria, la via della calunnia privata per abbattere Berlusconi e tentare di riconquistare un potere che stanno definitivamente perdendo? Oggi la vera notizia non è quella dell'ennesima squallida insinuazione, sempre più vomitevole, ma che a settembre ci saranno le case per i terremotati dell'Aquila, a pochi mesi dal sisma. Negli ultimi decenni e dopo numerosi terremoti, avete mai assistito ad una tale efficienza e dignitoso intervento da parte di un governo? Non avete ancora capito che delle puttanelle, vere o inventate, scovate dal Corriere o dalla Repubblica, non gliene frega niente a nessuno, se non a chi alimenta questo vergognoso metodo in cui sta declinando il confronto politico? Fabio. Ma quanto ci vuole a capire che l'argomento che in tanti contestano a Berlusconi non è il fatto delle veline in sé? Il problema è tutto l'insieme della figura del Premier. È tutto l'insieme di ciò che dice, di ciò che fa, di ciò che rappresenta. Il problema è culturale prima che politico. Basti osservare il messaggio che arriva dalle sue televisioni, che è quanto più di cattivo gusto si possa trovare. È contro questo che ci battiamo, contro un tentativo di modellare la realtà a conformazione del consumismo e superficialismo più bieco. Si sta attuando il tentativo di ridurre le persone a ballerini e attori di soap. Non è questa l'eredità che vogliamo per i nostri figli. Gianluca. Gentile direttore, è incredibile sentire le news dell'ultima campagna elettorale della sinistra pre-ballottaggio con l'ambasciatore D'Alema che minaccia scosse per il premier alla TV e poi l'indagine per la tratta di prostitute nelle sue feste. Praticamente per ogni timore di perdere voti, PD e company non cercano nuove soluzioni da proporre al popolo, ma usano gli amici magistrati o i PM per creare contro il singolo Berlusconi scandali inesistenti. Ma il popolo che ha votato questi politici alla frutta deve sapere. Deve sapere che se non ci sono buone soluzioni e nuove idee da parte del partito di sinistra, potranno avere solo delusioni, a meno che qualcuno goda nel vedere campagne elettorali politiche con scandali a seno nudo. Christian. Viviamo in una Italia di matti. Un calciatore quasi sconosciuto che fa un gol in una partita della nazionale italiana, a volte per sbaglio, diventa un mito. E non si sa quanto valga il giorno dopo. Una tizia sconosciuta che critica Franceschini, il giorno dopo si ritrova europarlamentare e quasi segretaria del PD. Un romeno accusato di stupro va porta a porta e diventa famoso in tutta Italia per un errore giudiziario. Ma quanti italiani subiscono la stessa ingiustizia e nessuno ne parla? Potrei continuare con pagine di simili idiozie. Ritengo che un popolo che si comporta così abbia un grado di cultura infimo. La stampa italiana ha raggiunto un livello scadente perché non riesce più a fare cultura. Ricordo che negli anni 60, quando venni interrogato in italiano, mi chiesero «Cosa c'è nella terza pagina del Corriere della Sera?». Io non seppi rispondere. E presi un 2. Da quel giorno iniziai a leggere i giornali, ma oggi ho smesso perché mi vergogno di essere trattato come un deficiente. Vorrei un'Italia in cui ci sia un presidente del Consiglio che abbia la possibilità di governare senza ingerenze e che, dopo 5 anni, venga giudicato dal popolo. Attualmente Berlusconi mi sembra l'unico che possa riuscire a governare 5 anni senza subire imboscate e solo per questo l'ho votato. Non mi interessa quello che fa nella vita privata. L'importante è la nazione. Giancarlo. Penso che l'istituto del referendum, pur se perfettibile, sia una delle cose democratiche che abbiamo. Molti ne parlano come di qualcosa che ci fanno votare, dimenticando che in realtà è stato creato perché noi cittadini avessimo la possibilità di dire la nostra, chiedendo di abrogare delle leggi nel caso ritenessimo che i nostri rappresentanti non avessero interpretato correttamente la nostra volontà. È un nostro problema e una nostra responsabilità se lasciamo spesso, sempre, che l'iniziativa referendaria non parta da noi, ma da alcuni rappresentanti dell'opposizione che vogliono tentare un'ultima carta per abrogare una legge sulla quale sono stati sconfitti in Parlamento e per questo cercano a posteriori il consenso dei cittadini. Il fatto che un numero limitato, persino esiguo, di noi possa avere il potere di mettere in discussione la sopravvivenza di una legge, lo trovo democratico. Trovo altrettanto democratico che se la volontà di pochi non è condivisa da un numero sufficientemente rilevante di noi, la legge in questione non venga messa in discussione. Il famoso quorum, quindi, lo trovo democratico. Se la proposta di abrogazione è veramente popolare e vede la partecipazione di un numero rilevante di noi, è normale che a questo punto, e solo a questo punto, si continui sì e i no, per procedere o meno all'abrogazione della legge. Personalmente, quindi, non capisco il fastidio suscitato dai referendum e le obiezioni sul doppio quorum. Mi infastidisce, invece, che questo strumento ci venga scippato, ce lo lasciamo scippare dai politici. Cosa che accade anche quando, per evitare la consultazione referendaria, tentano di modificare la legge in oggetto trasformandola di fatto in un'altra, o quando, al di sopra delle nostre teste, si decide se far coincidere o meno la data del referendum con quella di altre elezioni. Roberto. Il paese ha delle paure. L'immigrazione, la delinquenza, la crisi economica. Nessuno può negare né sottovalutare queste paure che sono reali e vissute dai cittadini. Ma tutti, a partire dai politici, si devono impegnare per affrontarle e per risolverle. Durante la campagna elettorale si sono usate le paure, dalla Lega a Rifondazione Comunista per attrarre voti. Nessuna proposta per risolverle, ma un'unanime dichiarazione di paura per ottenere voti. Ciò che affermo non è fantasia. Lo si può leggere sui cartelloni di propaganda elettorale. La Lega scriveva: «Vi abbiamo salvati da un'invasione». Rifondazione, a nome di Oliviero Di Liberto, scriveva: «Le mie paure sono le vostre». Non speranze, non proposte, ma paure. Se la classe dirigente o quella che si propone di esserlo durante le elezioni ha paura, il cittadino cosa deve fare? Se il politico ha più paura del cittadino, qual è il futuro? Ma soprattutto, se il politico non propone soluzioni alle nostre paure, perché dovremmo votarlo? Eppure la drammatica realtà è che chi ha cavalcato la paura, senza proporre soluzioni per il futuro, ha ottenuto un successo elettorale. La Lega ne è un esempio, come lo è in misura minore Rifondazione Comunista. L'opinione pubblica, cioè i cittadini italiani, hanno premiato il populismo, indicandolo come medicina per ogni paura. L'Italia e gli italiani hanno una sensazione percepita di insicurezza altissima, ma invece di affrontare i problemi che generano le paure in maniera concreta, si rifugiano nelle certezze di un populismo fine a se stesso. La classe dirigente che abbiamo, di destra quanto di sinistra, mediocre e incapace, rappresenta ciò che abbiamo liberamente scelto. Quindi è quella che ci meritiamo. Buona paura a tutti. Abbiamo liberamente scelto di non risolvere le nostre paure, eleggendo chi le cavalcava senza proporci soluzioni concrete. Buona paura. Massimiliano. Caro direttore, credo che mai, come in questo periodo nel nostro paese, i valori cristiani siano stati messi da parte, se non calpestati. Per fortuna, a favore degli emarginati, sempre più emarginati, si leva ogni tanto la voce della Chiesa. Ma fa abbastanza? Quando si prospettava la possibilità del riconoscimento legale tra persone omosessuali, la Congregazione per la Dottrina della Fede scriveva: «Nel caso in cui si proponga per la prima volta all'Assemblea legislativa un progetto di legge favorevole al riconoscimento legale delle unioni omosessuali, il parlamentare cattolico ha il dovere morale di esprimere chiaramente e pubblicamente il suo disaccordo e votare contro il progetto di legge». Documento del 28 marzo 2003, approvato da Giovanni Paolo II e firmato dal cardinale Joseph Ratzinger, prefetto, ed Angelo Amato, segretario. Una vera ingerenza nello Stato. Un paio d'anni dopo, in occasione del referendum sulla procreazione assistita, la Chiesa invitava apertamente i fedeli ad astenersi dal voto. Altra ingerenza. Non sarebbe urgente oggi fare un altro piccolo strappo alla regola? Un pacato invito ai parlamentari cattolici a non approvare leggi che calpestano il Vangelo e ai fedeli a non votare per chi quelle leggi le approva. Attilio. Caro direttore, puntuali come orologi svizzeri sono partite le solite immancabili tirate contro l'Europa. Nell'ordine: i dati sull'affluenza alle urne e l'aumento dei consensi ai partiti anti-europei in alcuni stati confermerebbero un risveglio dell'opinione pubblica che avrebbe capito come l'Europa sia inutile o anacronistica e con tanta leggerezza si sottintende che andrebbe eliminata al più presto. Sarà meglio fare alcune precisazioni. È fuor di dubbio che l'Europa ha ancora molta strada da fare per arrivare a una condizione decente di organizzazione e unità, un'unità che non deve essere solo economica. E il fatto che le elezioni europee vengano trasformate in sondaggi elettorali nazionali non vuol dire né che l'Europa non esista, né che l'Unione Europea non serva a niente. Al massimo, vuol dire che i nostri onorevoli governanti hanno ancor meno considerazione per noi cittadini elettori di quanto non si pensasse. In Europa si fanno leggi. Europea è la nostra moneta e largamente interdipendenti sono gli stati dell'Unione, non solo in campo commerciale. Potrebbe sembrare roba da poco, ma i ferventi euroscettici, a prescindere, si guardano bene dal ricordare che nella loro odiatissima e burocratica Unione Europea, che sarebbe solo uno strumento al servizio delle multinazionali, nessuna legge può passare senza l'accettazione del Consiglio, cioè dei governi degli Stati membri, e che l'euro, anche ora in questo periodo di crisi, gode di ottima salute. E non è finito male come loro speravano. È facile sparare a zero quando si danno per scontati quella stabilità e quel minimo di coordinamento che siamo riusciti a raggiungere grazie al pur ancora incompiuto processo di integrazione europea. Forse qualcuno sogna davvero di tornare ai tempi in cui in Europa le controversie fra stati si risolvevano dopo tensioni anche forti, quando si riusciva a risolverle senza arrivare alla guerra. La maggioranza assoluta della popolazione europea di oggi non concepisce più neanche lontanamente situazioni del genere. Quindi freniamo gli entusiasmi. Già che ci siamo, perché di questi tempi i lor signori appassionati euroscettici non vanno a fare simili dichiarazioni in paesi come l'Islanda? Secondo me ci sarebbe di che farsi grasse risate. Sergio, Pavia. Caro Sergio, ci sarebbe poco da aggiungere alle sue considerazioni. Mi permetta solo di dire che un pizzico di euroscetticismo, ma in modica quantità, potrebbe essere anche utile. L'Europa dei valori, del mercato aperto, della libera circolazione deve infatti anche un po' difendersi da se stessa, dalla crescita delle burocrazie e dai costi della politica, dalla complessità delle procedure e dalle possibili ingerenze nelle competenze dei singoli stati. L'Europa è un grande risultato, ma è anche un processo continuo che va tenuto nella strada della crescita economica e sociale. Tra le lezioni per il futuro, l'iniziativa avviata dal Sole 24 Ore in collaborazione con il Financial Times per aprire un dibattito sulla ripresa economica, c'è quella di Carlo Azeglio Ciampi. L'ex Presidente della Repubblica va annoverato tra i grandi uomini della nostra storia, prima come governatore della Banca d'Italia ed economista, e poi come Presidente. Se le figure come quelle dei padri della patria esistono e hanno senso, egli è tra questi. Con la saggezza e la pacatezza che lo hanno sempre caratterizzato, egli scrive: «Rimuovere le cause che frenano lo sviluppo del nostro paese significa intraprendere modifiche strutturali, sconfiggere il prevalere di interessi economici e sociali che traggono vantaggio dalla condizione attuale. La classe dirigente del nostro paese deve adottare politiche, intervenire su regole e modalità operative. Le modifiche che il nostro paese ha davanti suscitano scoramento per quanto immani, urgenti e imprescindibili esse sono. Sembra ormai una mission impossible, dato che coloro che traggono vantaggio dalle attuali condizioni sono innumerevoli e disseminati in tutti i gangli della nostra società e resisteranno a qualsiasi rinuncia. Non guasterebbe che il presidente Ciampi citasse ancora una volta dettagliatamente le cause da rimuovere e rielencasse con nomi e cognomi le classi, o forse dovrei dire caste, che si avvantaggiano di un'Italia medievale. La sua voce autorevole impedirebbe che tutti i titolari di interessi di parte, pur richiamandosi ai suoi moniti, facessero orecchie da mercante, perché rinunciare a qualcosa tocca sempre ad altri. Angelo. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.